1, 2, 6, 9. Alza il microfono, Federico, alza il microfono. 1, 2, 6, 9. 1, 2, 6, 9. Alza il microfono. Alza il microfono. Sono le 20:59, sono un po' in anticipo sull'orario previsto. Voglio ringraziare l'amico fratello Vittorio che mi ha dato il là per venire in radio stasera. Sono 106 anni dal manifesto futurista di Marinetti e Soci, che, come qualcuno di voi sa, ha una certa connessione con me medesimo. Alza il microfono, porcaccia miseria, c'è un bordello qua, e che ha una certa attitudine, una certa connessione con me medesimo, presente e attiva giovinezza. E quindi io, come forse qualcuno di voi sa, faccio delle serate futuriste dal novantesimo del manifesto, e sono 106 anni. Tutti gli 11 febbraio facevo qualcosa. E stavolta mi sono preso il coraggio a quattro mani e farò qualche cosa in radio, qualche cosa di futurista, forse poetico, ma chi lo sa, radiofonico, se ho culo. Comunque, che vi devo dire, buona serata, buon ascolto e niente, si va così alla ricerca dell'impossibile, ecco, che vuoi fare? Assedio, spentare spazio con un accordo. Pum, pum, pum. A un momento di 500 echi per attannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pum, pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppitanti pugni, batteria titolata. Violenza feroce, preconarita. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi. Acuti della battaglia, tre battaglioni bulgari in marcia, rocca, su Mimarizza, o Carvavera, zrang, zrang, 200 tanti in arrivo, 149 in partenza, rocca, grida gli ufficiali, sbattacchiare come piedi d'ottone, pandi qua, pandi là, cin, bum, bum, bum, ciao! Vampe, vampe, vampe, ribalta le forti, vampe, vampe, vampe, vampe, ribalta le forti, vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, Suki Pasha comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo Ibrahim Rudolph, allo, allo! Attori, ruoli, leghi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odore stradito, odore di marcio, non sento più i miei piedi gelati. Timpani flauti, canini, dovunque basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzio. Nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 chilometri quadrati. Fazzoletti bianchissimi, pieni d'oro, tenuta nell'alto cielo, pallone, sferico, dorato, materiale. Ebbene sì, siamo giusto a uno sparo di distanza dalla fine del secolo XX, del secolo XXI, di tutti i secoli che si accodano l'uno sull'altro. E questa voce già vecchia di Filippo Tommaso Marinetti quando registra il suo pezzo forte, il suo bombardamento dalla battaglia di Adrianopoli 1912, scritta e pubblicata, la registrazione degli anni 30, si sente la differenza nella voce, si sente la differenza, e ci stava da Dio con questa versione di Jimmy Shelter. Perché io sono così, sono a metà tra la disperazione, l'orgoglio e la voglia di fare ancora qualcosa. Sono veramente a metà, così, in bilico su una roccia, in bilico su una frana, in bilico tra la voglia di volare via e la paura di cadere giù. Per cui state con me ragazzi, state con lo zio Fred stasera, che siamo tutti giusto a uno sparo di distanza dal burrone. Essai de poésie pure. Sembra o non sembra il telegiornale? Sembra o non sembra una cozzaglia di interrogazioni parlamentari? O forse sono solo le news di Euronews che fanno questo tipo di rumore in modo molto meno poetico, forse in modo molto più statico. Almeno lo fanno nella mia testa. La mia testa si coagula di pensieri poco simpatici. E vabbè, che altro fare in questa serata che dovrebbe essere futurista, che dovrebbe servire a tirarmi sul morale, eh? Che dovrebbe tirarmi sul morale. Ho del morale da tirare su, signore e signori. Se volete, se potete, aiutatemi a tirarlo su. E poi guardi il mare, poi odori l'aria. In un certo senso lo faccio somigliare a una specie di concrezione fisica esterna di quello che noi portiamo dentro di noi di velenoso. Il tema di indagine è un tema attinente all'autoritarismo, ma io lo paragono a un veleno, è un veleno che serpeggia proprio nel cuore, nello spirito degli uomini, nelle nostre psicologie. Signor Petri, e come spiega che questa storia così poco premio Oscar abbia ottenuto il premio Oscar? Beh, sai, i premi Oscar, come tutti i premi, sono imprevedibili. E soprattutto l'America è un paese imprevedibile. Ora, per esempio, noi sappiamo che la legge dell'Oscar è una legge molto curiosa, che rappresenta però in pieno, direi, in modo radicale, una contraddizione che è insita al sistema americano. Cioè, il sistema americano è il sistema nel quale viviamo tutti, più o meno, io direi perfino a est. Vale a dire, la coesistenza, prego, dentro lo stesso sistema, di due anime. Cioè, noi sappiamo che l'America è divisa in due parti. Una parte che difende interessi di isolazionismo, nazionalisti, imperialisti, ed è la parte che ha dato in questi ultimi anni prova di grande cocciutaggine, che ha provocato più di un episodio bellico negli ultimi 25 anni. Poi c'è un'altra parte che è formata da sinceri radicali, da persone che vogliono e sognano addirittura l'utopia. Ed è un vastissimo arco di umanità che comprende dai marxisti fino agli utopisti, agli anarchici. Questa parte dell'America è molto importante, imponente, direi. Quindi perché l'Oscar non dovrebbe rappresentare questa scissione, questa lacerazione che c'è proprio nella società americana, questa coesistenza di due anime, anzi di due corpi? Signor Petri, e come spiega che questa America, che si entusiasma della Love Story, si sia entusiasmata al suo film? Ma io ho l'impressione che nel mio film siano rappresentati dei problemi che interessino in questo momento la grande maggioranza degli uomini. Ripeto, è sempre un film, quindi noi parliamo sempre così di una piccola area, di una piccolissima porzione di coscienza, insomma, è l'opera di un gruppo di persone che crede in un'idea e cerca di portarla avanti. Ecco, questa idea naturalmente interessa molte persone in Italia, in Francia e in America, forse anche in Unione Sovietica, non lo so perché il film non l'hanno visto. Il problema della prepotenza del potere autoritario è un problema vivo dappertutto. In America poi, dove vige un sistema democratico che permette una rapida circolazione dei fatti e delle idee, noi sappiamo che di affari riguardanti clan di cittadini al di sopra di ogni sospetto ne scoppiano ogni giorno. L'ultimo clamoroso esempio di affari tra cittadini al di sopra di ogni sospetto è il caso Calley, secondo me. Signor Petri, dato che il mondo, come lei dice, è pieno di cittadini al di sopra di ogni sospetto, e sono proprio i cittadini al di sopra di ogni sospetto che danno i premi, ecco perché lei non ha rifiutato il premio Oscar? Ma più tutti perché scendi ad osservare che accade. Io ho scelto una strada riservato a te, che è la strada tradizionale di quelli che hanno fatto il cinema fino all'epoca di me, di fare il cinema dentro certe strutture che sono cosiddette dell'industria. Questa scelta comporta una serie di scelte successive, vale a dire, per esempio, uno cerca di fare certi film che in qualche modo spostino le masse di opinione. E sarebbe inutile pensare di fare questi film per poche persone. Thank you. Oczy tygrysa. Czarne pień, żółta ziel, żółta ziel, żółta ziel. Morze, szum fioletu. Cici, krzyk małpy. Niebieskie pręgi w zieleni. Błękit, żółć, fiolet, palmy, obok. Krzyk ptaka purpurny. Na sinej łapie stąpa cicho olbrzymie zielone oko, krwiste zielone oko. To drugie, małpy cici, papugi hihi, zielone oko. Masa zielono-żółta, fiolet w krok, drży małpie serce, tajemnica puszcza krew, zielone oko. Palmy szumią, rododendron czeka, motyle lecą, nieruchome czuwa oko, purpura zieleń. I to drugie, zielone oko. Strach drzemie, małpy shishi, papugi hihi, zielone oczy. Czy to już noc, czy to już dzień, czy to sen, czy to strach, czy to hipnotyzm. Palmy, cisza, zmrok. Małpy, motyle, papugi. Cici, hihi, cici. Accendi la radio. Accendi la radio. Accendi la radio. І кастати довелось йому благодушню зіноцьку. Був важенно, всім станом качним, бився в спіну зіноць. Как ревет без доголосіна, раз такая зіноцька. Яволь, влеволь, вправоль бросится, убежала зіноцька, но удачи удалось. Ci fu un tempo in cui furono i poeti a muovere la storia. Majakowski, Marinetti, quello stronzo di D'Annunzio. I poeti muovevano la storia perché inventavano le parole che poi le persone avrebbero usato per parlare del futuro. Ecco, noi non abbiamo più il coraggio di inventarci le parole per parlare del futuro. E questo è la tomba del nostro futurismo. E da questa tomba bisogna uscire, come diceva qualcuno, bisogna prendere le nostre ossa calcinate e farci delle armi. Farci delle armi di poesia da usare per uscire almeno dalla fossa e rivedere un po' di sole, per rivedere un po' di sole, porca miseria. Avevamo vegliato tutta la notte, miei amici ed io, sotto lampade di moschea, dalle cupole di ottone traforato, stellate come le nostre anime, perché come queste irradiate dal chiuso fulgore di un cuore elettrico. Avevamo lungamente calpestata su opulenti tappeti orientali quella nostra atavica accidia, discutendo davanti ai confini estremi della logica e annerendo molta carta di frenetiche scritture. un immenso orgoglio gonfiava i nostri petti, perché ci sentivamo soli in quell'ora ad essere desti e dritti come fare superbi o come sentinelle avanzate di fronte all'esercito di quelle stelle nemiche occhieggianti dai loro celesti accampamenti. Soli coi fuochisti che s'agitano davanti ai forni infernali delle grandi navi, soli coi neri fantasmi che frugano nelle pance arroventate delle locomotive lanciate a pazza corsa, soli con gli ubriachi annaspanti con un incerto batter d'ali lungo i muri della città. Sussultammo ad un tratto all'udire il rumore formidabile degli enormi tramvai a due piani che passano sobbalzando, risplendenti di luci multicolori come villaggi in festa che il Po straripato squassa e sradica di improvviso per trascinarli fino al mare sulle cascate attraverso i gorghi di un diluvio. Poi il silenzio divenne più cupo, ma mentre ascoltavamo l'estenuato borbottio di preghiere del vecchio canale e lo scricchiolar d'ossa dei palazzi moribondi sulle loro barbe di umida verdura, noi udimmo subitamente ruggire sotto le finestre gli automobili famelici. Andiamo, dissi io, andiamo amici, partiamo, finalmente la mitologia e l'ideale mistico sono superati, noi stiamo per assistere alla nascita del centauro e presto vedremo volare i primi angeli. Bisognerà scuotere le porte della vita per provarne i cardini e i chiavistelli. Partiamo, ecco, sulla terra la primissima aurora non è cosa che agguagli lo splendore della rossa spada del sole che schermeggia per la prima volta nelle nostre tenebre millenarie. E ci avvicinammo alle tre belve sbuffanti per palparne amorosamente i torridi petti. Io mi stesi sulla mia macchina come un cadavere nella bara, ma subito risuscitai sotto il volante l'ama di ghigliottina che minacciava il mio stomaco. La furente scopa della pazzia ci strappò a noi stessi e ci cacciò attraverso le vie scoscese e profonde come letti di torrenti. Qua e là una lampada malata dietro i vetri di una finestra ci insegnava a disprezzare la fallace matematica dei nostri occhi per i tumori e io gridai: il fiuto, solo basta le belve. E noi come giovani leoni inseguivamo la morte dal pelame nero maculato di pallide croci che correva via per il vasto cielo violaceo, vivo e palpitante. Eppure non avevamo un amante ideale che ergesse fino alle nuvole la sua sublime figura, né una regina crudele a cui offrire le nostre salme contorte a guisa di anelli bizantini. Nulla per voler morire, se non il desiderio di liberarci finalmente dal nostro coraggio, troppo pesante. E noi correvamo schiacciati sulle soglie delle case, i cani da guardia che si arrotondavano sotto i nostri pneumatici scottanti, come solini sotto il ferro da stirare. La morte addomesticata mi sorpassava. Mi sorpassava ad ogni svolto per porgermi la zampa con grazia e quando a quando si stendeva a terra con un rumore di mascelle stridenti, mandandomi da ogni pozzanghera sguardi vellutati e carezzevoli. Usciamo dalla saggezza come da un orribile guscio e gettiamoci come frutti pimentati d'orgoglio entro la bocca immensa e torta del vento, diamoci in pasto all'ignoto, non già per disperazione, ma soltanto per colmare i profondi pozzi dell'assurdo. Avevo appena pronunziato queste parole quando girai bruscamente su me stesso, con la stessa ebrietà folle dei cani che vogliono mordersi la coda, ed ecco ad un tratto venirmi incontro due ciclisti che mi diedero torto, titubando davanti a me come due ragionamenti, entrambi persuasivi e non di meno contraddittori. Il loro stupido dilemma scuoteva il mio terreno, che noia, Tagliai corto e per disgusto mi scaraventai con le ruote all'aria in un fossato. Oh, materno fossato, quasi pieno d'acqua fangosa. Bel fossato d'officina. Io gustai avidamente la tua melma fortificante che mi ricordò la santa mammella nera della mia nutrice sudanese. Quando mi sollevai, cencio zozzo e puzzolente, di sotto la macchina capovolta, mi sentii attraversare il cuore deliziosamente dal ferro arroventato della gioia. Una folla di pescatori armati di lenze e di naturalisti podagrosi tumultuava già intorno al prodigio. Con cura paziente e meticolosa quella gente dispose alte armature ed enormi reti di ferro per pescare il mio automobile, simile a un gran pesce cane renato. Con la macchina emerse lentamente dal fosso, abbandonando nel fondo come squame la sua pesante carrozzeria di buon senso e le sue morbide imbottitura di comodità. E non applaudite ancora, che non ho finito, porca miseria. Non ho finito ancora. Che vi applaudite, coglione. Credevano che fossi morto e che fosse morto il mio bel pesce cane, ma una mia carezza bastò a rianimarlo ed ecco risuscitato, eccolo in corsa di nuovo sulle sue pinne possenti. Allora, col volto coperto della buona melma delle officine, un pasto di scorie metalliche, di sudori inutili, di fuliggini celesti, noi, contusi e fasciate le braccia ma impavidi, dettammo le nostre prime volontà a tutti gli uomini vivi della terra. Manifesto del futurismo, con i suoi punti, che io non vi leggerò perché lo sforzo adesso che mi sono posto nello stesso fango, magari non d'officina, ma di San Scemo, di social, di elettricità domata nei bit, quello stesso fango d'officina deve darmi le parole per poter parlare di futuro da poeta, oppure il coraggio di tacere. Эх, молодчики, купчики, ветерок в голове, в Пугачевском тунуччики. Я иду по Москве, не затем высока воля правды у нас, на болях рысаках, чтоб катались двумя, не затем у врага кровь вела с подешевки, чтоб вести жемчуга руки каждой торговки, не зубами скрипеть, ночью долгою, буду плыть, буду петь, тоном долгою я пошлю вперед вечеровые слуги. Кто со мною? Алло. А со мной мои слуги. Non è in fondo buffo cercare queste parole in lingue che non conosco, di poeti che conosco poco. Blennikov, questo, un frammento da entusiasmo di Ziga Vertov, prima musica composta per un film pro-bolscevico nel 1920, sperimentale di Ziga Vertov, ebreo, poi cancellato da Stalin. Non è un caso che vada a cercare parole lì dove non capisco, anche questa sera dopo tanti anni che leggo poesia futurista per farla mia, quando in realtà cerco parole per parlare di futuro e incendiare me prima che le masse, perché ragazzi, signori, signore, amici, fratelli, di questa notte dell'11 di febbraio del 2025 è dura, stanotte è dura guardare il mondo da questo buco di ragno dove sono infilato, è dura guardare il mondo andare diretto, veloce, con crudeltà e con stupidità verso la fine. È dura perché un po' di intelligenza vorrebbe poter trovare qualcos'altro, qualcosa per evitare tutta questa stupidità, tutto questo oblio, tutto questo ostracismo sciatto che vedo ovunque e cerco di scuotermi da dosso andando a cercare parole che non conosco di 100 e più anni fa, in un momento in cui c'è stata per un attimo una porta che si è aperta e poi si è chiusa ed è subito sera, momento di poeti per poeti, poi occupato con roboante sicumera da una guerra atroce e da l'ufficio P, propaganda, e dalle sue creature, non il povero Marinetti che se la fece più che altro in trincea quella guerra, ma gente come D'Annunzio che trovò tutte le parole adatte ad ammansire e, come dire, trascinare in una follia ridicola la borghesia italiana, tante belle persone magari orribili, folli, trascinati in quelle parole da balcone lanciate da fiume che lo stesso D'Annunzio tradisce poi per lavarsi in un lago di sangue fraterno nel Natale di sangue, quelle parole che poi lui non riesce più a scrivere, continuerà a pronunciare attraverso una bocca ghignante. Soffriva di denti il D'Annunzio, morirà senza un dente, con la bocca marcia di qualcuno che ha evocato le parole sbagliate pur di avere successo e ha creato una mostruosità che ancora paghiamo con quel gesto osceno di Elon Musk alle sue folle di ignavi e di bastardi di poco fa, quando tutto quello che si poteva dire di umano è cancellato in questo debito farsesco di già sentito, già detto, già letto, ignorato, ignorabimus. Io dove le trovo le parole giuste? Almeno per me, non per il mondo. Il mondo giustamente se ne fotte di gente come me. Ma le mie parole dove le trovo? Dove le trovo? He prospered and proliferated, flooding the world with cut medicines and cheap counterfeit goods of every variety. Adulterated shark repellent, cut antibiotics, condemned parachutes, stale anti-venom, inactive serums and vaccines, leaking lifeboats. One more short piece. This is also from Exterminator. It's called From Here to Eternity. Mildred Pierce report. Almeno uno dei compiti che abbiamo è di tenere in vita l'arte, perché l'arte è più di noi, e tutti i nostri sforzi per anni sono stati orientati verso apprendere l'arte, far sì che l'arte ci riempisse, ma comincio a credere che non fosse questa la centrale del movimento. La questione, come per le parole, è che l'arte, se non è cercata, invidiata, invista, divinata da qualcuno che non l'ha, muore. L'arte ha bisogno di essere viva, bruciando con noi come combustibile. Yeah. pace. Cerchiamo un po' di pace tra tutto questo rumore. Non è facile. Non è facile perché tutto mi prende. Tutto mi prende alle visceri. Tutto mi prende sulle ginocchia, che cominciano a non reggere più il mio peso. Dovrei lasciare andare molte cose, imparare l'arte del lasciare andare. Non è facile per me, perché sono una lumaca, mi porto tutto sulla casa, sulla groppa. E vabbè, proviamo a cercare altro, qualche altra poesia, va? Qualche altro stimolo. Questa è per te, Fred. Di esaudire un sogno, di essere libero, di sere che esagero, di sesso e d'amore, di fiori, l'odore, di aria pulita, di amici, di vita, di bere un bicchiere, di ipotesi vere, di musica alta, di ciò che mi esalta, di foto ricordo, di fingermi sordo, di chi mi vuol bene, di notti serene, di acqua se ho sete, di notti segrete, di starmene zitto, di quello che ho scritto, di stare a pensare, di uscire, viaggiare, di giorni di mare, di avere da fare, di neve d'inverno, di un nuovo quaderno, di avere ambizione, di fare il coglione, di un utile clima, di fare una rima, di fare una lista di ciò che ho bisogno. Erpinto. Il direttissimo del tempo, passato, presente, futuro, passato, presente, futuro, passato, presente, futuro, passato, passato, passato, presente, futuro, presente, futuro, futuro, futuro, futuro, futuro. Inside, fog. Outside, dark. The train stops, last stop, light goes off. The door opens, shall I get out? Do you step two out in the cold, in a long corridor, neon, walks on high heels. She's uncomfortable. Long coat, shoes are too small, or something. Something behind. Walking fast, invisible, a moonlight, frost, hillside, not a cloud, silence. Walk careful, step over step, sound on creaking ice, sound of winter, sound of winter. She's in my hands. Softly she reads in the book, and I imagine her skin so white, and I smell a farewell of chance between her legs. I had a dog once, a fast and brave dog. He liked to play in the tall grass and make loops around me in mid-May, and I remember the day I had to leave him. She was taller than him, had more money too. Every night she would wait him to come back late in the night. Sometimes the sun was high and he smelled of someone in the neck, his tie undone. Softly spoken lies would pass by, and all is only vanity. And I sleep now, a last one. She wears a red dress, but it's dirty. Rains, and she sits stoned on a bench in a side street. Water washes away what the dress keeps. Поэтому он, ну, у него были какие-то странные свои представления, так сказать, о гигиене, о чистоте. Например, всю посуду он вытирал марганцем. Он ее не мыл, но полоскал в марганце, поэтому дома у него вся посуда была темно-коричневого цвета. Хлеб он обжигал всегда на газе. Когда он выходил на улицу в мороз, то он набирал полный рот кипятку, чтобы, не дай бог, не проронить на морозе ни одного слова. От чая он требовал, чтобы он кипел ключом. У нас дома так и говорили, что кипит покручено почти. Но вот как-то меня всегда очень интересовали его стихи, вот эти его, хоть они и заумные. И вы знаете, ну он был человек совершенно одинокий. А я очень люблю вообще семейные праздники. Люблю свой день рождения, люблю день рождения своих детей, всех. И я как-то подумала, он живет один. Ну как он празднует свой день рождения? Я еще училась тогда в школе, я его спросила. Он что-то невнятно ответил, он говорил очень быстро так. Я ему сказала: Алексей Алексеевич, хотите, я буду вам праздновать ваш день рождения? Его смерти в 67-м году, в 68-м году у нас дома праздновался его день рождения. Он имел право в этот день позвать кого угодно. Это было его полное право, но так как он ложился спать всегда в 9 часов, то обычно это бывал обед. Ну вот Михаил Светлов ему прислал такую телеграмму: как свежий огурец меж огурцов соленых, так между нами выглядит крученых. А Асеев ему, значит, написал так: Алексей Елисей всех поэтов словосей. Так что я думаю, даже имея свидетельство вот таких вот людей, мы могли бы как-то более бережно относиться к его памяти. Но он очень много рассказывал мне, я ему очень обязана, много мне рассказывал им о Маяковском, рассказывал очень занятную такую историю, как еще перед в годы Первой мировой войны они, молодые футуристы, ездили по стране, и вот они приехали в какой-то губернский город, а тогда, чтобы получить разрешение на выступление в губернском городе, нужно было представиться губернатору. И вот они вошли, значит, первым вошел Маяковский, представился и сказал: Владимир Владимирович Маяковский. Потом вошел Бурлюк и сказал: Давид Давидович Бурлюк. Потом вошел Каменский и сказал: Василий Васильевич Каменский. После этого вошел Асеев, сказал Николай Николаевич Асеев. После этого вошел Крученок, которого звали Алексей Елисеевич, сказал Алексей Алексеевич Крученок, губернатор сказал: вон, мальчишки, хулиганы, вы меня будете разыгрывать. Никакого разрешения они не получили. A D'Annunzio bastò la cocaina e la fica per metterlo fuori causa. Per Marinetti è più difficile, perché Marinetti non usava il singolare, usava il plurale. Lui cercava di uscire come un movimento e fece di tutto per mantenere il movimento anche dopo la parentesi aspra di quella guerra strana e assassina che fu la prima guerra mondiale. Dopo si è innamorato e il tempo è passato veloce. Si è ritrovato all'interno di una rivoluzione che era simile a lui, che aveva le stesse parole d'ordine, che aveva la stessa visione dell'Italia, e quindi si è lasciato catturare, come si è lasciato catturare dalla donna. Per carità, un eccezionale artista come Benedetta, si è lasciato catturare dalla storia, che sembrava più pesante e più veloce di lui, dei suoi 40 e 50 anni, quel ventennio che lo ha ucciso. Marinetti è morto di cuore, non di un aneurisma come quell'altro. Sullo stesso lago, quasi, guardando l'Italia morire, mentre invece lui non ce l'ha fatta, è morto prima dell'Italia, di quell'Italia perlomeno che lui aveva contribuito a disegnare, con le parole che aveva trovato in quel fosso d'officina, che non è il nostro, che non è il nostro, ma in qualche modo usiamo per evocare un'energia che non c'è più, mentre il bisogno delle parole giuste c'è ancora ed è ancora più forte. Questo pezzo si chiama Holti Gingles, Tietti le palle, Bassi Fondi Orchestra, 1998, Roma, con Fraco e quel matto di Blazen. Gingles, huh? Yeah. An influence of Chinese culture there. Asian culture is influencing they us. They never had an alphabet. It's because they never had an alphabet. They've always been in acoustic space. Also, you know, Chinese, you have to be proper to be speaking Chinese, otherwise you really don't understand. Because it's very acoustic. There is no space for accent, no big space for accent. You need to be precise. I agree with you. I think it's a good progress then. And I think with ChatGPT, what ChatGPT is good at is what academics thought was their bread and butter. Just deriving from already existing text, just derive more text. And it's a process of text generation, academics. Yeah. And it's completely obsolete. In its worst and most banal form. Of course, yeah, of course. There is good scholarship. Of course, scholarship is important. But it's also a form of pollution, like ChatGPT. Yeah, but what was the scope of scholarship is born to put together mind and make them talk. And if you want a proof of that, you take the laws that formed the Biblioteca of Alexandria. Alexandria Library was a research center, and if you were part of it, you were obliged to eat there at least once a day. And this thing perpetuated in the idea of college, of the high table, the lower table, etc. So you had to have informal conversation between peers. It could also be, you know, uncontrollable bullshit. But it was about to create an environment for conversation. How you shape a situation in a way that you can have meaningful conversation. That's an art form. There's nothing to do. It's an art form, and so it can take many shapes. It can variate. People can be better in doing it, less good in doing it, and it has theatrical components. It's a show, but no, it's not a show that everybody thinks is serious. It's real, or pretend to think is real. It's a show that is good because it's a show. Images as dialogue, we look for poetry. Poetry is analogy, analogic juxtapositions of sounds and images that is meaningful only if there is somebody bleeding, actually or potentially behind. Poetry cannot be made interesting if artificial. You need to have the experience of life behind. Objawienia, ból kołysze kołyską dziecka. W imię ducha motoru, amen. Widzę ja, gość mój. Ziemia się ciągnie biała, dźwigająca, przydrożny krzyż. Miliony mil, dzwony z kryształu. Zamarzłe rzeki, szkielet, dysk. Miliony mil, niewola, rozpacz. Miliony mil, niebo palące się słońce. Miliony mil, zielone, niebieskie, żółte. Miliony mil, w tańca zgięły się nogi, trzęsią się brzuch. Ludzie, zwierzęta, jaszczury, tańczą trudny ideał. Miliony mil. Ho, ho, ha, taniec, ogień, ziemia, woda. Diamenty, stropicciami le foglie sul petto e ascolta il sale della terra, strofina forte. E non temere, quando si aprirà sarò io la tua barca e non annegherai nel mio mare interno. Ho avuto 3 raggi di sole per ogni giorno di vento e la pioggia che mi hai regalato ancora la tengo in tasca. a gustarla con calma domani a merenda. Camenda, Diego Pan, Pan, Pan, Ogin, Gemia, Vota. Oh,